Il punto di Stefano Folli. Il doppio stallo in cui si è impantanato il governo Letta attende di essere risolto, pena un grave indebolimento generale. La questione Calderoli riguarda il Parlamento e le forze politiche, ma investe ormai il prestigio del Presidente del Consiglio nel momento in cui Letta si è scagliato personalmente contro il vicepresidente del Senato per le sue frasi razziste, chiedendo senza apparente successo l'aiuto di Maroni. E l'affare Kazakistan, l'espulsione della madre con la bambina, deve trovare una spiegazione esplicita entro un paio di giorni, altrimenti il veleno politico corroderà la maggioranza, visto che il ministro dell'interno coinvolto è anche il segretario del PDL. È comprensibile la prudenza, ma solo se è l'anticamera della chiarezza. Non si può dare all'interno e soprattutto all'esterno l'immagine di un paese impotente e irresoluto, nel quale nessuno è mai responsabile di niente.